funziona. Benvenuti, salve a tutti, con me ci sono Jacopo e Andrea, episodio, me l'hai appena detto, me lo sono già scordato. Alzheimer. 214. Non è il 215? Vabbè, non è importante tutto questo. La cosa importante, magari ho saltato un episodio, ci saranno censure in questo episodio, non è importante. Allora, stasera oggi parliamo di un film che... comincio subito, insomma. No, allora, in realtà è abbastanza... cioè, è abbastanza importante come cosa, nel senso che... importante, nel senso, hanno speso un sacco di soldi per sta cacata, perché allora, hanno comprato i diritti di un film, Netflix ha comprato i diritti di un libro o di una serie, non ho ben capito, per farne il film. Sicuramente il primo romanzo l'ha comprato, poi insomma magari anche gli altri. E stiamo parlando dei libri di Richard Osman, che è uno scrittore britannico che è diventato famoso in realtà per questa serie, ma credo che sia molto venduto in Italia ultimamente, non penso sia una roba, poi io non l'avevo mai visto prima, però l'ho visto per la prima volta tipo all'inizio dell'anno scorso, quindi non è, mentre il primo libro è del 2020 mi pare, tradotto in Italia, e il libro in questione è la serie di libri in questione è Il Club dei Delitti del Giovedì, Thursday Murder Club. E io avevo provato a leggere il primo libro, tra l'altro, un anno fa, mi pare, e però non mi aveva preso perché è scritto un po'... cioè, ti butta un po' in mezzo e insomma, non riuscivo bene a inquadrare i personaggi. E poi magari ne parliamo perché non sono... cioè, magari anche voi avete notato che i personaggi sono, non dico stereotipati, ma abbastanza assurdi come scrittura. E quindi non riuscivo bene a capire che cazzo stesse dicendo, e quindi ho smesso tipo dopo le prime 20 pagine, 30 pagine, qualcosa del genere. E poi non l'ho più ripreso. Ho visto che poco fa invece ho visto, cioè qualche mese fa, ho visto che è uscito, qualche mese forse è troppo, un mese fa ho visto che è uscito l'adattamento cinematografico su Netflix. E parliamo appunto del film di Netflix, Il Club dei Delitti del Giovedì o The Thursday Murder Club, quindi hanno deciso di tenere lo stesso titolo, uscito quest'anno e quest'anno sulla piattaforma. Di cosa parliamo? Voi mi state ascoltando? Siete già svenuti di sonno? Che ore sono? Esatto. Allora... di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando quindi di un adattamento cinematografico di un libro che ha come regista e sceneggiatore Chris Columbus, di cui parlavamo appunto qualche secondo fa, prima di iniziare la puntata. E Chris Columbus, non so, cioè, immagino che tutti voi sappiate di chi stiamo parlando, ma è un regista molto famoso per diversi film, tra cui appunto Mamma ha perso l'aereo, e Mrs. Doubtfire, e Harry Potter, eccetera, eccetera, quindi insomma è abbastanza famoso negli anni 80, anni 90, è stato parecchio famoso per questi film, e poi si è un po' incriccato con Percy Jackson, e sembra che non abbia ancora superato il suo trauma. Comunque no, cioè, ci ha regalato tantissimi film, insomma, di successo che abbiamo visto quando eravamo... noi, nella nostra generazione, quando era piccola, però, insomma, che continua a essere film cult. In più, non solo è importante per Chris Columbus, è importante perché il cast è incredibile, cioè, nel senso, hanno preso tutti i pensionati più famosi, gli attori pensionati più famosi di, direi, Hollywood, ma è più la parte inglese, diciamo, di Hollywood, e li hanno ficcati qua. Più qualche aggiunta relativamente giovane, ma neanche troppo, tra cui appunto come cavolo si chiama, David Tennant, che insomma è forse David Tennant è forse l'attore più giovane in questo cast. E perché dico così? Perché appunto il film di cosa parla? Parla di un gruppo di pensionati parecchio ricchi, perché vivono in questa lussuosa casa per anziani, casa di riposo per anziani, che fanno, che si dilettano nel fare questo club dei delitti del giovedì. Quindi, mentre non sanno che cazzo fare nella casa di riposo, si vedono insieme la sera e indagano su casi. In realtà nel film non è che ne parli troppissimo, nel senso che loro indagano su questo caso avvenuto molti anni prima, nel 1975, mi pare. E poi però molto, molto in fretta il caso si sposta su un caso attuale, insomma un caso attivo, non un cold case, ma qualcosa che succede durante il film. Non direi nient'altro sulla trama, nel senso che è tutto qui. Quella cosa assurda è che... Allora, inizio subito a dire una cosa io, poi vi lascio parlare. Intanto diciamo che il libro non so, però il film in particolare sembra un po' non so come dire, un Agatha Fletcher, una signora in giallo sbagliata, che quindi appunto il detective è questo anziano che fa un'indagine, ma poi invece che cominciare con la signora in giallo, cioè inizia con la signora in giallo, ma invece che continuare con la signora in giallo, sfocia in quello che era Red. Non so se vi ricordate il film, il thriller, quello con Bruce Willis, i pensionati Ho che rimosso. sparano alla gente. E Come ha perché? rimosso? C'è la macchina che sgomma e lui che esce, Bruce Willis No, che no, esce ho in corsa. cancellato tutto. Red Perché di non. fatto quello che succede non è come, cioè, noi italiani ci aspettiamo, guardando questo film, qualcosa più tipo i delitti del Barlume di Malvaldi, non so se avete presente, quindi o appunto la signora in giallo, quindi un caso, un giallo, che ha come detective, tra virgolette, questo centro anziani. In realtà non è così, perché alla fine il centro anziani ha tutte queste cose, tipo lei dell'MI6, l'altro tizio, il sindacalista che però è tipo, non è solo un sindacalista, è praticamente un attivista, è Greta Thunberg, cioè una persona incredibile, quell'altro uno psichiatra, ma quindi altre cose, cioè diventa un po' tipo, ognuno diventa un superuomo, un super anziano, se proprio dobbiamo vedere, e quindi perde un po' di contatto con la realtà, ed era anche la stessa roba che mi pareva nel libro, per cui per quello ho smesso. E quindi, non lo so, cioè, da un giallo passa a qualcosa che, boh, sembra una mezza cacata di solita roba di Netflix, ecco. Cioè, parte da Knives Out, quindi dal trend che si sta un po' adesso risvegliando, cioè da qualche anno si sta risvegliando, quindi un giallo classico, delitto a porte chiuse, queste puttanate qua, e finisce per parlare di pensionati superumani che fanno cose, e in una sindrome in cui tutto avviene nello stesso villaggio, sono tutti imparentati, cioè, non lo so. Questa è stata un po' la mia impressione. È carino, godibile, però ha un po' rotto le palle. Povere. E non so se volete dirmi voi cosa ne avete pensato, visto che l'avete visto di recente. Io l'ho visto un mesetto fa più o meno, già ho dimenticato parte di quello che è successo. Ma non lo so. Ma alla fine, boh, io non conoscevo il romanzo, cioè non conoscevo nulla a riguardo di questo film. L'ho visto proprio a scatola chiusa. Quindi non avevo neanche chissà quali aspettative. No, non mi ha sconvolto, ma neanche deluso. Diciamo, l'ho Tu non visto. avevi aspettative perché appunto non hai letto che c'è Chris Columbus e non hai letto che il produttore è Steven Spielberg, giusto per darti Esatto, due nomi. no, Ok. no, esatto. Adesso che me l'hai detto, è faccio fatica, però vabbè, lì per lì non mi è dispiaciuto troppo, devo ammettere, il gruppetto Sì, no, è di godibilissimo, però appunto anziani te lo OP, dimentichi divertente. dopo. Poi vabbè, c'è il mio carissimo Tom Hollis, Ellis, che faceva Lucifer anche in questo film. Madonna, sei invecchiato, poveretto. Il suo ruolo non è cambiato, quindi. Ma a me sembrava solo più grosso, non invecchiato, però vabbè. Non hai Sembrava visto più tutte le rughe che muscoloso. gli hanno messo, cioè gli hanno messo tutto il mascherino Vabbè, per non può nascondere invecchiare, le dov'è Lucifer? rughe. È Lucifer. Jacopo invece boh, schifo, sicuro. No, allora io l'ho visto un po' distratto in treno, quindi devo dire non era proprio la situazione ideale. Infatti mi sono pure perso, come dire, il regista, non mi sono informato per niente. La mia, come si dice, la mia aspettativa era di un film di Netflix in tutto e per tutto, cioè un film di Netflix per Netflix, fatto dalla solita, non so se hanno tipo un team di persone che fanno i film, tipo due film. Steven Spielberg. Esatto. No. Invece no. Questa cosa un po' mi sorprende perché non mi ha lasciato nulla. Cioè come film, non lo so, boh. Non è neanche quel divertente, non so. Non mi ha detto nulla. Cioè sì, alcune cosine... Carino, allora, non so se anche voi la pensate come me, è comunque abbastanza migliore, so che non è molto italiano, però, di un film medio di Netflix, cioè comunque si vede che qualcuno ci ha lavorato, ci ha messo le mani, ecco, però detto questo non è niente di che, cioè... Sì. Sì, sono d'accordo, cioè è meglio sicuramente, ma non saprei dire di quanto, perché comunque... Mi ha lasciato cioè non mi ha lasciato niente come altri film di Netflix, quindi sì, purtroppo non so cosa dire. Cioè, carine alcune idee, carina la premessa, ma ecco, una cosa che ho apprezzato che fa questo film, che è molto classica, è, non so se posso dirlo perché è uno spoiler. Vabbè, se vi interessa risolvere il mistero andate a vederlo e basta. Io adesso dico una cosa non spoilerosa, ma quasi, ovvero che quello che stavano investigando all'inizio poi alla fine c'entrava qualcosa con quello che succede lì, che non mi è dispiaciuto. Cioè, è bello quando un film, insomma, riesce a farlo, specialmente in questo genere. Allora, nel senso che purtroppo non è un film. Cioè, no, nel senso, è un libro. Mi spiego meglio. È il, più o meno il trend dei libri gialli degli ultimi 5 anni, questa roba qua. Quindi c'è questo qui, c'era quell'altro lì, tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno. Cioè, adesso non voglio dire che sono tutti uguali, però fondamentalmente il ritorno poi, cioè la chiusura, come fosse una stand-up comedian, una roba di stand-up, e c'è sempre, quindi il giallo iniziale poi rientra nel giallo finale. È carino perché è un film, però di fatto purtroppo leggendo io questo tipo di libri è un po' sempre la solita. No, certo, ma tutto quello che vuoi, no? È sempre quello che ti aspetti di meno, è sempre l'alibi, no? Cioè ci sono tante regole, però se già riesci a fare il compitino... Diciamo che sei meglio di tanti altri che sprecano tempo. Molti film di Netflix, cioè, ti buttano 10 minuti all'inizio solo di setup e di, diciamo, di presentazione. Oh, dove l'avevo visto? Tra l'altro io ho apprezzato il fatto che non sia una serie TV, perché non è scontato. Cioè, Netflix ha un po' sta roba qua, che se una roba andrà bene, e questo fondamentalmente va bene perché... E i nomi che ci sono grossi, dice, ma sai cosa, ci facciamo una bella serie, così la dividiamo in due parti, magari facciamo la seconda parte il mese dopo, così ci prendiamo il doppio dei soldi. E apprezzo molto che abbiano mantenuto una struttura di film. Hai ragione, effettivamente. Sì, no, cioè, sono quelle cose che non sono così scontate per una piattaforma di streaming adesso. E tra l'altro, appunto, adesso che lo sapete, avete ascoltato l'episodio, se avete Netflix andatevela a vedere, se avete un'oretta e mezza libera non dura tanto, è comunque godibile e ha un po' di umorismo inglese che non è male, che secondo me ha aggiunto lui, non era nel libro, non lo so perché non ho letto il libro, e se vedete Amblin Entertainment con E.T. che vola sulla luna all'inizio quando accendete il film, ora non avete scuse per... come abbiamo avuto noi per ignorarlo e dire ah ma sì cose, e poi dopo vedere ah ma c'è Spielberg dentro. Beh. Sì, non lo so, purtroppo non ho molto altro da dire su questo film. No, ma ci sta. E io, allora, se vi interessa, cioè se vi è intrigato il film, vi consiglio anche appunto di recuperarvi, non dico questo libro, ma di recuperarvi un giallo scritto negli ultimi 5 anni, 4 anni, perché la struttura dei gialli, dei gialli come vengono scritti adesso sono un po' così, quindi appunto un po' alla Knives Out, un po' alla Siamo Tutti Parenti, di fatto, cioè detta così non vuol dire niente, però che tutti sono coinvolti, cioè una sorta di Il Mistero dell'Oriente Express di Agatha Christie, e ci sono un sacco di appunto di scrittori moderni che famosi anche in Italia, che hanno scritto un sacco di libri così. Questa tendenza sta finendo purtroppo anche in Netflix, perché appunto The Residence, di cui avevamo parlato la settimana scorsa, segue un po' la stessa linea. Però se vi ha intrigato come struttura narrativa, ve lo consiglio, sono libri brevi, sono libri altrimenti aspettate, perché adesso ne sforneranno un milione. È una minaccia. Sì. No, vabbè, cioè, è chiaro che è una roba semplice, cioè ormai hanno capito la formula, e vabbè, questo in particolare sarà costato uno sproposito, però lo puoi fare anche con un budget più ristretto. C'era un film. Mi stupirei se uscirà. Nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno tra qualche mese. C'era un film che avevamo visto non tantissimo tempo fa, forse per questo podcast, dove c'era Adrien Brody, mi pare. Faceva un personaggio. C'era tipo un teatro. Mi sa che è questo. Ok, sì. Sea of the Run, che in italiano si chiama Omicidio nel West End. Non so se l'avevamo fatto per questo podcast o se l'avevo visto. Non ho mai visto questo film. Ah, ve lo consiglio. Nel senso che per me questo film, Omicidio nel West End o Sea of the Run, è la versione corretta di Thursday Murder Club. Nel senso che... Ah, ma l'ho visto io, sì. È molto bellino, è molto carino, è fatto bene, è un compitino, quindi comunque riporta tutto, eccetera, ma è anche leggermente, diciamo, meta-narrativo e fa qualcosina in più. Non è solamente, come dire, ah, Knives Out ha venduto molto, facciamo Knives Out. È un pochino più classico, è più Agatha Christie in tutti i sensi, poi vedrete se non l'avete visto. Le immagini mi sembra familiare. Forse abbiamo fatto per abbiamo il fatto la forse abbiamo tutti l'Alzheimer in questo podcast. No, ora che l'ho visto, sì, ora che ho visto il film La Locandina, sì, ho visto. Sì. Figo. Sì, hai ragione. Cioè, è la versione... È la versione di qualche anno fa di questo tipo di film, quando ancora erano fatti bene. Sì, ne uscivano di meno, vabbè. Comunque... esatto. Non vedo l'ora che esca il nuovo Knives Out Mystery, Benoit Blanc, insomma non mi ricordo sì. Come si chiama. Quando è previsto? Steel Garlic, no non so. Tra pochissimo. A dicembre tipo? Credo, o quest'anno o il prossimo anno. Ah. 2025. Il 26 novembre al cinema, su Netflix a dicembre. Tra poco. Al cinema non credo in Italia, però. Ah, ok. Oddio, non lo so, Cioè, mi sa che Glass Onion l'hanno fatto al cinema, mi pare, non mi ricordo. Forse Knives Out. Sì, forse Knives Out era pre-Covid, tipo 2019, può essere? O forse era uscito... non mi ricordo, vabbè. Comunque si vede che abbiamo visto solo film compensionati, Perché sono veramente rincoglianiti con la memoria. 2019, quindi... Siamo pronti alla pensione, Salla. Ne parleremo di pensione. E poi non ha senso. Vabbè, poi ne parliamo la prossima volta. E niente, sì. E concordo, comunque sì. Basta. Volevate dire altro su questo film? No, il trend però mi piace, quindi... Il quiz. Il trend pensionati o il trend giallo? Il trend, tutte e due. Il quiz ci sto pensando, tornerà la rubrica... Non stavolta, ma tornerà la rubrica quiz. Va bene. Voi avete riconosciuto comunque Bogdan, il personaggio del... No, chi era? Bogdan, il polacco. Ho capito, sì. No, non so chi sia. Quando ero un po' più giovane ha fatto un Harry Potter. Vi ricordate quale Harry Victor Potter? Victor Krum? No, chi era? Chi era in Harry Potter? Io assolutamente, cioè, quando l'ho visto ho detto, ma cosa lui? Chi era? Oddio. Non vi viene in mente? Non era Victor Krum. Non era Victor Krum, però quasi. Il film l'hai preso. Era il quarto? Era il quarto. Non ho idea. Chi era? Il prefetto di Corvo Nero. Era Madonna. Quello che... Vabbè, Non me lo ricordo. Cioè, già non mi ricordavo il film in questione, figurati se mi ricordo. Ci sta. Non siete fanatici come me, avete ragione. Giustamente. Famoso per? No, il prefetto di Corvo Nero, famoso per? No, è quello che è, cioè, danza con Flair durante il ballo di... Ah! Mi ricordate? Ora che me l'hai detto, non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo chi è Flair, ma non mi ricordo nient'altro. Ci sta. Ha fatto altro oltre a quello? Sì, qualcosina ha fatto Now You See Me 2. Porca vacca, tra l'altro adesso. Ah, Now You Don't intendi. Ah no, quello è già. Va bene, dai. E non trattengo le persone in questo podcast di più, ma faccio un piccolo spoiler per settimana prossima, perché uscirà un episodio molto simile a quello di questo. Che parlerà del nostro attore preferito. A settimana prossima. Ciao.